Benvenuta e benvenuto su Arcani nella Notte, il podcast per gli appassionati di tarocchi, simboli e ricerca interiore. Se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartomanzia, vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza, Arcani nella Notte è il podcast che fa per te. Buon ascolto! Ciao, sono Alessandro di coachditarocchi.it e ti do il benvenuto nel nuovo podcast Arcani nella Notte. Allora, oggi, per quel che mi riguarda, andrò a fare un confronto tra i tarocchi e le altre culture, ovviamente a livello di simbologia. E questo lo ritengo molto utile come esercizio proprio per migliorare la nostra riflessione, rompere gli schemi, perché ovviamente ogni cultura ci arricchisce da una parte, dall'altra ci impoverisce se ovviamente non la conosciamo e creiamo un muro. Quindi ci aiuta anche ad andare oltre alle definizioni, migliorare la nostra creatività ed è un po' come andare a unire i puntini, presente l'esercizio della settimana enigmistica, senza però unirli, cioè riuscire a vedere la figura intera senza eseguire manualmente l'esercizio. Quindi è proprio un esercizio mentale e di consapevolezza, ok? Allora, prendiamo ad esempio le divinità indiane. Noi sappiamo che c'è la Trimurti, quindi sono tre aspetti della divinità. C'è Brahma, Vishnu e Shiva, che come corrispondenza potrebbero significare Brahma la creazione, quindi il creatore che è associato all'elemento terra, perché è da dove germoglia la vita. Vishnu è visto come il conservatore, quella forza conservatrice, e qui ci possiamo semplicemente agganciare l'elemento acqua, mentre Shiva è visto come il distruttore, quella forza rappresentata dal fuoco che ci permette di fare una nuova creazione, quindi poi ricominciare il nostro ciclo. Se noi facciamo un'ulteriore associazione, un ulteriore collegamento con altri contesti, potremmo vederli come le forze terrestri, il positivo, il negativo, il neutro. E ci accorgiamo che queste definizioni, quindi la divisione in tre, è anche più funzionale, più efficace della divisione dicotomica. E per divisione dicotomica intendo bianco-nero, vero-falso, cattivo-buono, che diciamo è quella più prevalente in questo periodo qui da noi. Perché proprio secondo me si riflette attraverso il pensiero informatico. Perché l'informatica alla fine si suddivide tra 1 e 0, 0 e 1, è una ripetizione di questi codici ed è bidimensionale, mentre la realtà ovviamente non lo è. Ci accorgiamo poi che per fare un modello ancora più completo, da 3 si trasforma in 4. Questo, ovviamente sto parlando di fisica e vado anche oltre. E sicuramente ci torna anche utile per aumentare il nostro livello di riflessione. Le forze quindi sono state individuate come gravitazionale, le due nucleari, quella debole e forte, e poi l'elettromagnetica. Ok? Allora, quale può essere un confronto fatto qui da noi? Beh, da noi diciamo che c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma gli antichi dei quali erano quelli principali? Era Giove, Nettuno e Poseidone. E quindi vediamo proprio un riflettersi delle stesse forze, ovviamente in contesti diversi, quindi raccontati e con etichette diverse, diciamo simili, ok? E ci possiamo vedere, quindi facendo tutto quanta la somma di quello che abbiamo detto, il confronto con i tarocchi attraverso uno schema che può essere di 2, di 3 o di 4. Cioè andare a suddividere i tarocchi dall'1 al 10 e poi dall'11 al 20, dove restano il matto e la carta 21, quella del mondo. Oppure lo schema 3, che è quella che suddivide le 21 carte, lasciando fuori sempre il matto, dalla 1 alla 7. o dalla 8 alla 15, ok? Quindi andando a creare proprio delle tre fasce formate da 7 carte. Oppure quella a 4, dove le 4 forze possono corrispondere ai bastoni e ai denari, quindi facendo riferimento più agli arcani minori. E qui vediamo che non sono affatto meno importanti, cioè la definizione di minori è più distintiva più che di qualità, nel senso che hanno la stessa importanza, ok? Allora adesso facciamo magari un esercizio e te lo propongo, io ti do degli spunti perché assolutamente non mi metto dalla parte della verità, non posso assolutamente dire che il mio modello è il migliore, che è quello giusto, ma è solamente uno spunto per farti riflettere e a questo punto mi piacerebbe sapere anche attraverso i tuoi commenti sulla pagina Facebook, che ricordo è Coach dei Tarocchi, ok? Riuscire a capire anche tu cosa ne pensi. Io ho pensato che Brahma potrebbe corrispondere alla ruota 10, perché comunque è raffigurato con tre facce e quelle tre facce mi vanno a ricondurre i tre animali, le tre figure che compaiono sul tarot della ruota. E sono, se vogliamo, delle forze che vanno a ripetersi, che vanno a creare, no? Come Brahma, vanno a creare una... vanno verso la stabilità. Vishnu, invece, mi avvicina di più alla temperanza e alla giustizia. Io do un accento in più alla temperanza, se mi permetti, perché è molto più vicino all'equilibrio, ok? Shiva invece io lo vado personalmente ad associare alla casa di Dio, il tarot 16, quindi quello che è più conosciuto come torre perché richiama quell'immagine, però il suo vero nome è casa di Dio, perché è la carta che distrugge, se vista da un punto da un certo punto di vista è negativa, però sappiamo benissimo che senza la distruzione, senza la rottura degli schemi, non ci può essere vita, non ci può essere continuità e non ci può essere di nuovo creazione, ok? Infatti è anche una carta di chiusura che attende l'intervento della stella, dove la stella ci porta la creatività direttamente dall'alto, la creatività pura. Quindi vediamo che ci sono moltissime correlazioni tra culture, tra simbologie, tra vari strumenti, e riuscire a farle, secondo me, ci porta più significati, ci dà la possibilità di creare dei consulti più ricchi e completi. Quindi, proprio per questo, io ti lancio una sfida positiva, ovviamente. Prendi un foglio, pensa alle correlazioni che ci possono essere, come un esercizio di brainstorming, che tra l'altro è un esercizio che io spiego nel percorso gratuito Cartomante Digitale. Ti ricordo che è un percorso con dei video che aiuta le persone che vogliono entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia a livello lavorativo, le persone che ci vogliono proprio lavorare, anche se partono da zero, ok? E l'esercizio di brainstorming serve proprio per sviluppare delle idee nuove, degli schemi nuovi, e una delle sue prerogative è di non criticare, cioè di non aver paura di sbagliare nel momento in cui noi scriviamo delle idee, scriviamo delle ipotesi, ok? Quindi proprio a questo punto ti vorrei consigliare, suggerire di fare proprio un esercizio di brainstorming con i collegamenti tra le varie simbologie e quali secondo te possono essere più o meno attinenti. Quindi se sei d'accordo o non sei d'accordo con quelle che ho dato io ed eventualmente quali sono le tue alternative, ok? Bene, detto questo io ti aspetto al prossimo incontro di Arcani nella Notte, ti auguro buon esercizio nel caso tu voglia farlo e ti lascio al prossimo intervento. Ciao da Ale, coach di tarocchi.it. Buonasera a tutti e buon lunedì. Ecco, ora prima di presentarvi la pietra di cui parleremo questa sera, che è l'ematite, volevo accennarvi a una cosa molto importante quando si prendono dei cristalli, che è quella della programmazione. La programmazione dei cristalli avviene da tempi immemorabili. Infatti, tanti cristalli lemuriani che ritroviamo anche oggi sono stati programmati dai maestri di Lemuria, sia durante il periodo florido della loro civiltà, sia nel momento della decadenza. Ugualmente è accaduto per Atlantide. E questi cristalli sono stati programmati un po' come avviene in ambito informatico, quindi grazie a tecniche di alta tecnologia e ad antiche conoscenze che oggi sono andate perdute. Teniamo presente che quando si programma un cristallo, lo si pulisce dalle energie pesanti, ma il suo scopo primitivo non può essere annullato. Dunque, possiamo beneficiare ancora oggi delle programmazioni lemuriane atlantidee delle gemme, anche se non siamo al momento consapevoli delle informazioni che racchiudono. Detto questo, con questa premessa, nel momento in cui si acquista un cristallo o ci viene regalato, è necessario purificarlo, magari bruciando un mazzetto di salvia bianca o una o più bacchette di incenso, sfruttando anche l'energia delle campane tibetane se le abbiamo, o quando è possibile immergendolo in acqua e sale. Dopo o durante questa prima pulizia possiamo programmare il cristallo in base allo scopo che noi ci prefiggiamo. Programmare in questo caso significa proprio fornire un'informazione alla gemma in modo che ci permetta di lavorare con essa per apportare il maggior beneficio sia a noi che agli altri. Allora, un consiglio durante questa delicata fase di pulizia è quella di annullare qualsiasi forma di pensiero o qualsiasi programmazione precedente. Quindi dobbiamo inserire un nuovo messaggio, magari un messaggio semplice ed efficace, in modo da evitare confusione o un eccesso di informazioni al cristallo o alla gemma. Nel momento in cui facciamo pulizia, mentre ad esempio facciamo scorrere dell'acqua sopra il cristallo e la immaginiamo di riversare sulla nostra pietra una cascata di luce dorata, perché il color oro ha il beneficio di fissare le informazioni e possiamo concentrarsi su un'indicazione specifica. Se invece vogliamo utilizzare la programmazione attraverso le campane tibetane o i cimbali, mentre il suono vibra nella pietra, possiamo ad esempio recitare ad alta voce una nostra richiesta. Alcune formulazioni efficaci potrebbero essere: amato cristallo, che tu possa aiutare qualsiasi persona con cui vieni in contatto, oppure amato cristallo, ti prego, aiutami nella guarigione su tutti i livelli di coscienza e dimensionali. O ancora, amato cristallo, aiutami a liberarmi da schemi mentali, a sperimentare la ricchezza. Queste sono alcune delle programmazioni. Noi possiamo programmarlo anche attraverso il Reiki o il Theta Healing. Esiste anche un altro tipo di programmazione, forse più intenso, che si può eseguire ad esempio in un momento particolare della vita, quando abbiamo già pulito la pietra e magari le abbiamo già fornito un programma precedente. Che fare in questo caso? Allora, quello che si porta al cristallo può essere una programmazione riservata a un bisogno specifico, oppure a una pietra speciale per noi, con cui sentiamo una particolare connessione. In genere è ideale svolgere questo tipo di programmazione in giornate in cui a livello energetico sono presenti forze spirituali più intense, e queste giornate potrebbero essere il giorno di Natale o durante il Sakadawa, il mese simbolico ad esempio in cui è avvenuta la nascita e l'illuminazione del Buddha. Come fare per procedere a questa programmazione particolare? Sarebbe bello immergersi in un'atmosfera rilassata, magari accendendo una candela che aiuti a elevare le nostre frequenze e quelle dell'ambiente, trovando un sottofondo musicale che ad esempio sia fonte di ispirazione e di armonia, come ad esempio quello dei mantra o della musica classica. Quindi trovarci in un ambiente dove ci sentiamo sereni e in equilibrio, pronunciando ad alta voce o interiormente la frase specifica per questa nuova programmazione. E se preferiamo possiamo anche cantarla. Ed ora iniziamo a conoscere questa pietra molto antica che si chiama ematite. Il suo nome deriva dal greco aima, che significa sangue, ed è dovuto proprio al colore di una varietà microcristallina terrosa di questo animale, di questo minerale, che polverizzato viene utilizzato proprio fin dall'antichità come pigmento molto resistente. È una specie di ocra rossa. Ci sono varie varietà di ematite. Troviamo l'ematite rosa di ferro, l'oligisto, l'ematite fibrosa, l'ematite mammellonare. Proprio grazie al suo elevatissimo contenuto di ferro, fino al 70%, viene molto utilizzato proprio per estrarre questo metallo. Una curiosità: le prime matite venivano prodotte utilizzando proprio l'ematite, dalla quale hanno tratto il nome. In seguito a riscaldamento, l'ematite diventa magnetica. Nel XIII secolo, l'erudito scrittore musulmano Ahmad al-Tifasi, nella sua opera Il libro delle pietre preziose, tramanda che l'ematite funziona come rimedio contro ogni eccesso di bevanda rosso cupo. Infatti, nell'Arabia medievale, questa proprietà era così nota da conferire il nome alla pietra stessa, chiamata Agar al-Umar, che significa letteralmente pietra dell'ebbrezza, perché si riteneva curasse tempestivamente ubriachezza e mal di testa dovuto a intossicazione da alcol. Il suo nome cinese, Dai Ze Shi, significa letteralmente pietra rossa che perpetua le generazioni. Ma come si presenta l'ematite? È una pietra, una gemma di colore grigio-nero metallico, a volte marrone o rosso vivo, che richiama l'associazione con fuoco e con acqua. L'ematite è una pietra importante per lavorare sul sangue e infatti ha affinità col pericardio, perché supporta la capacità di proteggere e guarire noi stessi dalle ferite del mondo. Grazie al suo contenuto di ferro è facilmente magnetizzabile, come abbiamo detto, e permette di assorbire e trattenere efficacemente il calore. Praticamente l'ematite funziona come una spugna, assorbe la natura delle malattie. L'ematite inoltre è la pietra più pesante usata nella medicina delle pietre ed è molto ancorante e conduce sangue ed energia proprio verso il basso, alle pelvi o alle basse estremità, ed è infatti indicata per curare neuropatie, intorpidimento, paralisi, specialmente nelle zone basse, aritmia, soffi al cuore, mestruazioni scarse, mani e piedi freddi, la sindrome di Raynaud e anche l'embolia. Lavorando molto sul radicamento, l'ematite è una pietra del primo chakra, cioè del chakra della radice, e nel suo utilizzo emozionale aiuta a rafforzare la funzione del chakra della radice, a radicare e a riparare l'anima frammentata, soprattutto in persone che mostrano dei comportamenti infantili, specialmente se nella loro storia si registrano sensazioni di abbandono emozionale o anche di abbandono reale, come ad esempio è indicata per orfani, bambini prematuri che sono stati tenuti in incubatrice o che hanno avuto anche una madre un po' anaffettiva o non curante. Poi vediamo come si combina l'ematite e quale controindicazione può avere. Allora, è opportuno non combinare l'ematite con pietre con alto contenuto di fosforo, come l'apatite, soprattutto durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza, perché il fosforo interferisce con l'assorbimento del calcio. Invece, i gioielli di ematite sono generalmente appropriati a ragazzi giovani, a persone giovanissime o a madri nel primo trimestre di gravidanza, altrimenti per altre persone è meglio indossarli solo occasionalmente e tenerla nel trattamento della cura dell'energia in. Un'indagine su un oggetto composto da ematite magnetica mostra che questa praticamente aveva la composizione di una ceramica. Proprio sembrava quasi composta da una ceramica, come una ceramica. L'ematite poi è una pietra, è la pietra principale per ricaricare altre pietre usate per il livello di energia nutritiva Ying, perché attrae il calore per potenziare altre pietre. Quindi si possono posizionare cristalli e gemme che necessitano di essere ricaricate su una lastra di ematite o su un piatto contenente piccoli pezzi di ematite per rimetterli nella terra. Questa gemma, l'ematite, lavora meglio con pietre blu e verdi che contengono il rame, quindi si possono lasciarle in carica per 2 giorni. Praticamente il metodo fornisce una sorta di rianimazione cardiopolmonare per le pietre. Un consiglio: non combinare l'ematite con l'argento, perché l'ematite è antagonista della pirite e dell'ametista anche. Per il jet lag o dei disordini stagionali si può posizionare l'ematite sulla somma del capo o sotto i piedi o anche al centro del torace, perché diventa una pietra trasformatrice. Nonostante sia generalmente incompatibile con l'ametista, queste insieme, l'unica maniera per combinarle insieme, ametista ed ematite, fu solo ed esclusivamente quando vogliamo aiutare nella transizione verso la morte. Quindi possiamo posizionarle sul lato della caviglia, sotto il malleolo. Questo è chiamato il paradiso occidentale ed è un posto leggendario dove le persone vanno quando muoiono. E allora in questo caso la combinazione di ametista ed ematite è perfetta. L'ematite è anche una pietra matriarcale che lavora molto con l'anima vegetativa del fegato e viene utilizzata per assistere la persona e aiutarla a lasciare andare rimpianti e altri bagagli pesanti della sua vita, sia che lui o lei non abbia bisogno di un'altra incarnazione o che scelga volontariamente di tornare su questo piano dell'esistenza. Quindi è una pietra che può proprio aiutare ad andare in dolcezza verso il paradiso. L'ematite inoltre non richiede pulizia o ricarica. I suoi colori rosso e nero portano insieme fuoco e acqua. In questo modo è simile all'ametista, anche se con lei è incompatibile, se non in quel caso. Che dire ancora dell'ematite? Che l'ematite è una vecchia pietra e ricerche archeologiche condotte ad esempio in Sudafrica hanno scoperto che l'ematite veniva già usata dagli ominidi oltre 164.000 anni fa. Nella medicina cinese, il medico Li Shizhen utilizzava l'ematite soprattutto per nutrire il sangue e l'energia vitale delle donne. Dove si possono trovare i giacimenti o i depositi di ematite? Innanzitutto ricordiamo che l'ematite è uno dei più comuni minerali e si trova in numerose località. Alcuni dei campioni migliori sono stati trovati ad esempio in Inghilterra, in Messico, in Australia e nella regione del Lago Superiore del Nord America. Molte però ematite burattate e lucidate provengono ad esempio dal Brasile. Se vogliamo associare l'ematite a delle simbologie angeliche, potremmo vedere che l'ematite è connessa ad esempio all'arcangelo Ariel, che è letteralmente il leone o la leonessa di Dio, che dona coraggio e forza d'animo in modo delicato e tenace, oppure all'arcangelo Sandalfon, che aiuta a integrarci in modo gioioso e armonioso nella concretezza del mondo. Nel mio libro Il soffio dei maestri, le carte per la connessione e la meditazione, troviamo l'ematite associata a una maestra cosmica conosciuta anche come Kaula o Ke'ai, Redness of the Fire, ed è Pele, la dea del fuoco che governa i vulcani delle Hawaii. Questa maestra cosmica, che è una mutaforma, che potenzia la passione, definisce obiettivi e relazioni, aiuta ad essere onesti sui propri veri desideri del cuore, verso se stessi e gli altri, con l'ematite aiuta a rilasciare emozioni e sentimenti latenti inespressi. Quindi l'ematite aiuta proprio nella connessione anche con questa maestra cosmica. E nel libro, nel mio cofanetto, associata a questa gemma, c'è anche una bellissima piccola e breve meditazione che può aiutare a sentire particolarmente questa pietra, che porta moltissimo al radicarsi. Ecco, questa con questa ultima immagine vi auguro la buonanotte, al prossimo lunedì con una nuova gemma, e intanto, se avete voglia, sperimentate le pietre che vi risuonano, e man mano che riesco nelle prossime puntate vi racconterò sempre di più di questi incredibili e splendidi maestri pietrificati. Buona serata a tutti, ciao Ale e alla prossima volta. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, ciao Ale e bentrovati al nostro appuntamento del lunedì sera con gli arcani della notte. Allora, noi questa sera riprendiamo le fila dei nostri due incontri precedenti, incontri dedicati, per chi non li avesse ancora ascoltati, ad un libello, un libercolo datato 1781 a opera di un massone, abate, un protestante, studioso, ricercatore, Antoine Cour de Gebelin. Quest'uomo, come già ho abbondantemente spiegato negli incontri precedenti, ha scritto un libretto dal titolo Il gioco dei tarocchi, la cui importanza per noi è assolutamente rilevante, perché in tempi di, diciamo, nel pieno secolo dei lumi, lui fa risalire a questi suoi studi, a questi suoi riflessioni sul gioco, sul mazzo delle carte, intanto una derivazione della mantica, quindi dell'arte divinatoria, dei tarocchi. Quindi è come se un po' grazie a queste sue interpretazioni allegoriche riguardo alle carte avesse individuato un'antica arte divinatoria, quindi relegando l'idea che questo mazzo di carte fosse semplicemente un mazzo di carte, ma in realtà avanzando l'ipotesi che fosse uno strumento divinatorio. Ma soprattutto, e che è la parte più rilevante della sua ricerca, benché non sia assolutamente riconosciuta da tutta la critica, la parte più rilevante sta nell'ascrivere l'origine di questo gioco di carte alla tradizione egizia. Tradizione egizia che abbiamo già visto manifestata un po' nel preambolo che abbiamo fatto, ma soprattutto nella espressione dei trionfi che vanno dal 2 al 5, quindi della papessa, il papa, l'imperatrice e l'imperatore, dove vediamo che il potere temporale si associa al potere spirituale, dove vediamo che non ha senso, abbiamo detto l'altra volta, pensare a due figure come il papa e la papessa, perché non c'è un aggancio sociale alla figura della papessa, che è una figura che ha una connotazione, diciamo, non nota per il mondo moderno, cosa che invece il re, la regina e il papa avrebbero, ma che invece la acquista senso nel momento in cui la si pensa come la grande sacerdotessa e il grande sacerdote. E il richiamo alla grande sacerdotessa l'abbiamo visto l'altra volta, cioè proprio in maniera patente e manifesta nel riferimento alla tavola di Iside, nel riferimento alla grande sacerdotessa vista come Iside, perché ha in sé, porta sul collo il fallo di Osiride, le tre croci, il simbolo della doppia T come evocazione della triplice croce che si portava durante la celebrazione delle feste dedicate ad Osiride come simbolo di rinascita dopo la morte, trionfo che poi viene suggellato dall'arcano numero 7, quindi dalla figura di Osiride che ritorna sul suo carro trionfante trainato dai suoi cavalli. Ecco, in questo la mitologia egizia veramente si sposa precisamente e meravigliosamente con la simbologia degli arcani maggiori. Ecco, interessante diventa anche la riflessione che fa Antoine Cour de Gebelin su gli arcani 8, 11, 12 e 13. Sì. Allora, intanto diciamo che questo accorpamento di arcani evoca in lui il riferimento alle quattro virtù cardinali. 11, lo sappiamo, rappresenta la forza, questa donna che doma un leone, che gli apre le fauci con la stessa facilità con cui io le aprirei al mio cagnolino. Quindi una donna che ha proprio quella forza interiore, quella postura interiore che spalanca mondi, no? Che scavalca, che scavalla, potremmo dire, montagne, che solca abissi. Ecco, questa, la sua eleganza apre le fauci alle fauci al leone, come appunto con molta naturalezza, con molta facilità. Poi abbiamo l'arcano numero 14 che è temperanza. Temperanza, una figura alata e angelica che travasa acqua da un vaso, da una brocca, da una coppa all'altra. Beh, questa è un'operazione, direi, che noi potremmo riconoscere in una gestualità che facciamo tutti i giorni, che facciamo ricorrentemente, quando scaldiamo la mattina il latte perché è troppo caldo e lo passiamo dal pentolino alla tazza, dalla tazza al pentolino per raffreddarlo. Io trovo che questo sia un gesto di una semplicità, ma di un'immediatezza, di una naturalezza imbarazzante quasi, no? Quindi quest'opera di raffreddamento del liquido è in realtà la stessa opera che fa temperanza, che proprio raffredda e mitiga il liquore contenuto nei vasi, nelle brocche, no? E quindi ovviamente ci dà anche la misura del contenimento, del temperamento, dell'attesa, della pazienza e quello che ne consegue. Poi abbiamo Giustizia, che ha in mano la sua spada, il suo pugnale, la sua conquista, la sua forza, il suo potere, e dall'altra la Bilancia, come appunto equilibrio tra i poli opposti, che tra l'altro poi sono evidenziati dalla simbologia delle spade, il mentale, dalla simbologia delle coppe che noi ritroviamo nel cuore che si disegna sulle ginocchia di Giustizia. Poi c'è l'arcano numero 12, che rappresenta, a modo di vedere suo, di Antoine Court de Gebelin, la prudenza, una delle quattro virtù cardinali, come si dice, come avrebbero potuto dimenticare gli egizi una virtù importante come questa, un passaggio così importante nella vita umana. E tuttavia, se ci pensiamo, lui dice, in questo gioco noi non lo ritroviamo chiaramente, noi non abbiamo un chiaro riferimento alla prudenza, non c'è una allegoria. Lui fa sempre spesso riferimento a questa espressione che trovo splendida per descrivere il mondo che disaminano gli arcani, no? Quindi come si può pensare che gli egizi abbiano dimenticato una virtù così importante nello sviluppo della coscienza umana? Però in questo gioco non si trova. Al suo posto, dice, si vede il numero, la carta che c'è al numero 12 tra la forza e temperanza, no? Che è un uomo appeso per i piedi. E allora lui dice, ma che ci fa lì un appeso? Che cosa c'entra questo appeso, che insomma dovrebbe essere la carta che ci parla della prudenza, proprio opposta tra la 11 e forza e la 14 temperanza e giustizia, ma 8, ma in realtà lì c'è un appeso che non ha senso. E lui semplicemente lo liquida come opera del povero fabbricante di carte, per di più presuntuoso, che non avendo capito, non avendo compreso il potere allegorico, la bellezza dell'allegoria racchiusa nell'immagine che l'appeso dovrebbe invece rappresentare, si è preso la briga di correggerla a suo dire, snaturandola completamente. E qual era in origine, quindi, secondo lui? Molto bella questo risalire a questa possibile versione originale dell'appeso. Ecco, secondo lui la potenza non poteva essere rappresentata se non in un modo che potesse raffigurare un uomo in piedi, quindi non messo sotto sopra, ma un uomo in piedi che, avendo messo il piede per terra, con l'altro avanza tenendolo in sospeso, come per esaminare un po' il luogo dove potrebbe appoggiarlo con sicurezza o no. E il titolo di questa carta sarebbe L'uomo dal piede sospeso, piede suspenso in latino. Ma, dice l'autore del libro, essendo il fabbricante di carte ignorante, non sapendo cosa volesse dire piede suspenso, allora ha pensato di appendere un uomo per i piedi, quindi di farlo sospeso per il piede. Ecco, trovo questa interpretazione veramente suggestiva. Ci starebbe quindi dicendo che, a suo modo di vedere, l'origine l'originale rappresentazione dell'appeso non sarebbe con un uomo a testa in giù, ma sarebbe con un uomo a testa in su, normalmente in piedi, titubante su un piede al punto tale da non volerlo appoggiare, mentre l'altro è già appoggiato, a indicare proprio la prudenza del gesto. E arriviamo alla carta, l'arcano numero 9, che rappresenta il saggio o il ricercatore della verità. Il 9 rappresenta, lo sappiamo, l'eremita che noi possiamo intravedere in un filosofo, in un ricercatore, in un uomo sicuramente saggio, dal lungo mantello, con un cappuccio sulle spalle, che avanza curvo sul suo bastone, tenendo la lanterna con la sua mano sinistra. Ed è ovviamente il saggio per eccellenza, saggio per antonomasia, che cerca la giustizia, che cerca la sapienza, che cerca la virtù, che cerca, potremmo dire, l'uomo, perché ovviamente in questa raffigurazione noi ci rivediamo la storia di Diogene, che con la lanterna in pieno giorno cerca un uomo in pieno giorno. Ecco, diciamo che in questo si può sicuramente evocare tutto quel mondo fatto di eremiti, di saggi, personaggi che non, sicuramente erano frequenti nel mondo egizio, così come nel mondo antico, nel mondo greco, così come nel mondo orientale in generale. E con una carrellata abbastanza comunque rapida anche nella sua evoluzione, passa a indagare gli altri archetipi. E il sole, che noi vediamo proprio come il padre fisico degli uomini, della natura intera, lui che rischiara gli uomini, lui che presiede le loro città, dai suoi raggi stillano lacrime d'oro, perle che simboleggiano sicuramente le benefiche influenze di quest'altro. Poi passa in rassegna la luna, che sicuramente, ovviamente il sole sappiamo che importanza avesse nella cultura egizia e non è che lo possiamo tralasciare semplicemente, però diciamo che tutte le sue proprietà benefiche sono assolutamente in assonanza e risonanza con quello che è considerato il dio Ra, il sole nella tradizione egizia, quindi questa proprietà assolutamente positiva e padre generoso di tutta l'umanità e di tutto il creato. Dall'altra la luna che cammina dietro al sole, perché si vede che che nasconde dietro un sole, e anch'essa come il sole è accompagnata da delle lacrime di oro e di perle, per dire che per far capire che anche la luna come il sole produce doni alla terra. Ma a questo dobbiamo aggiungere un insegnamento, un riferimento che ci arriva dallo storiografo Pausania, un greco, che ci racconta nella sua descrizione della Focide che secondo gli egizi erano proprio le lacrime di Iside a ingrossare le acque del Nilo e a rendere fertili i campi dell'Egitto. E quindi i racconti di questo paese della Focita parlano proprio anch'essi di una goccia o di una lacrima che cade dalla luna nel momento in cui le acque del Nilo devono ingrossarsi. Beh, è curioso, perché noi questa immagine la ritroviamo, no? Nella lama della luna, nella lama numero 18, dove appunto questa luna che si nasconde, dietro la quale si nasconde il sole, da cui piovono gocce, perle e oro, come del resto piovono dal sole, quindi a evocare i doni che lascia alla terra. Gocce e lacrime che cadono nell'acqua dalla luna proprio nel momento in cui presumibilmente le acque del Nilo si stanno ingrossando, le acque del Nilo che sono rappresentate proprio dall'acqua dalla, diciamo così, dal corso d'acqua, dal lago d'acqua che noi vediamo rappresentato nell'arcano numero 18. Ai piedi dell'immagine c'è un gambero, un cancro, che sta a indicare sicuramente il cammino retrogrado della Luna. E sicuramente evocano questo, ma allo stesso tempo ricordano il momento in cui il Sole e la Luna escono dal segno del cancro e proprio in quel momento arriva l'inondazione causata, diciamo così, dalle loro lacrime. E questo avviene alla soglia della canicola che si vede nell'immagine seguente, di cui vi dirò poi in seguito. Immagine seguente, cioè, vuol dire riferimento alla carta della stella, l'arcano numero 17. Oltretutto, il centro della raffigurazione viene rappresentato da due torri, una alla sinistra e una alla destra dell'immagine. Queste due torri, a ben vedere, potrebbero essere veramente la rappresentazione delle famose colonne d'Ercole. Anche questa credo che sia un'interpretazione assolutamente interessante, no? E si sa che oltre queste colonne non si può andare, infatti sembrerebbe che oltre queste due torri nell'immagine non si possa andare. Tra queste due colonne ci sono due cani che abbaiano alla luna, quasi facendole guardia. Un'idea anche questa che trova riscontro nella tradizione egizia, perché questo popolo paragonava i tropici a due palazzi, ciascuno con un cane a sua guardia, che simili a dei custodi, a dei portieri, trattenevano gli astri nel mezzo dei cieli senza permettere che si scivolasse verso i poli. Beh, insomma, è un'interpretazione, se vogliamo, un po' azzardata, però sembra anche che Clemente, dall'Alessandrino, che però era di origine egiziana e quindi probabilmente da questa sua origine qualcosa in più sulle tradizioni egizie doveva saperne, nel suo libro, nei suoi scritti dal titolo Stromata, dice che gli egizi rappresentavano i tropici nella figura di due cani che, proprio simili a dei portieri, a delle sentinelle, a delle guardie fedeli, impedivano al sole e alla luna di andare più lontano e giungere fino ai poli, quindi impedivano di oltrepassare questi limiti. E veniamo alla figura, alla carta della stella, detta appunto da lui la canicola. Anche qui un'evocazione strettamente egizia, dove si vede appunto una stella brillante intorno alla quale ce ne sono altre sette più piccole, mentre la parte inferiore del quadro è occupato da una donna nuda, inclinata, piegata su un ginocchio, che sorregge due vasi rovesciati da cui sgorgano due fiumi. Ecco, Antoine Cour de Gebelin vede in questa carta, che appunto lui chiama la canicola, proprio un chiaro riferimento alla mitologia egizia, perché si tratterebbe, a suo modo di vedere, di Sirio, la stella per eccellenza, detta anche canicola, cosa che noi sappiamo perché quando nella carta del matto abbiamo riferimento al cane che spinge, noi diciamo che in realtà la meta del matto è Sirio, lo capiamo da che cosa? Proprio dal fatto della presenza del canide, che è un richiamo chiaro alla canicola. Quindi questa stella Sirio, che per eccellenza appunto campeggia in questa immagine, è detta appunto anche canicola. Perché? Perché appare quando il sole esce dal segno del cancro, che è tra l'altro il momento che viene rappresentato dalla icona precedente, quindi lui ne coglie anche i nessi profondi che ci sono tra una carta e l'altra. Le sette stelle che la circondano e che sembrano in qualche modo corteggiarla sono i pianeti, infatti la canicola è in qualche modo lei la regina, ed è lei che fissa l'inizio dell'anno. Le stelle che la circondano sembrano proprio venire a come dire, a eseguire i suoi ordini. La donna sottostante, che sembra appunto intenta versare l'acqua dalle sue brocche, è in realtà la dea, la sovrana dei cieli, Iside, alla cui benevolenza si attribuivano proprio le inondazioni del Nilo che iniziavano al sorgere della canicola, e quindi con il suo apparire segnalava l'inizio dell'inondazione. Ecco perché canicola era consacrata a Iside e ne era ovviamente il simbolo per eccellenza. Direi che qui veramente si fa affascinante in questa simbologia, in questa interpretazione allegorica. Antoine Courde-Chebelain fa veramente, si supera, i riferimenti sembrano veramente chiari, io credo che vadano presi in considerazione e memorizzati proprio per capire che messaggio profondo ci sia dietro, insomma. Bene, allora io penso che siamo in chiusura, però insomma magari qualche riflessione ancora me la prenderò magari la volta prossima su ancora magari qualche altra carta su cui vale la pena mettere un po' l'accento. Penso magari arcano numero 13, al 15 e al 16. Quindi, contrariamente alle aspettative, perché pensavo in realtà di poter chiudere oggi, no, mi riservo magari ancora un altro appuntamento per così lasciarvi anche un po' di suspense e rimandarci alla settimana successiva, la settimana prossima, per vedere come chiudere questo ciclo. Bene, io vi ringrazio ancora tutti per l'attenzione, ringrazio Ale, vi auguro una buona settimana, una buona notte e un caro saluto. A presto, a risentirci la settimana prossima con gli arcani nella notte. Buonanotte! Un saluto a tutti dalla libreria esoterica Il Sigillo, io sono Fabio, vi ricordo che ci troviamo a Padova in via Beato Pellegrino. E di conseguenza, se siete interessati alle scienze occulte, questo è sicuramente il luogo che fa per voi a Padova. Come ogni settimana vi propongo un consiglio di lettura che spero possa incuriosirvi ed interessarvi. Quest'oggi vi propongo I tarocchi bohemien di Papus, famoso pseudonimo di Gérard Ancos, il famoso occultista che si occupò di tarologia, di Kabbalah, di ermetismo, e che fu membro dell'ordine, per l'appunto, cabalistico della Rosa Croce, nonché l'elemento più influente della scuola del martinismo a Parigi. I tarocchi bohemien questo titolo potrebbe ingannarci a prima vista, perché ci riporta ad un ambiente, il termine bohemien ormai viene ricondotto a determinati ambienti magari artistici di fine Ottocento, e ha un certo stile di vita, diciamo così, sopra le righe. In questo caso si rifà più che altro alla tradizione zingaresca. Noi siamo abituati a parlare e a considerare lo zingaro a qualsiasi etnia appartenga, perché sappiamo che ne esistono diverse, come uno degli ultimi della nostra società, come il rappresentante di una popolazione quasi parassita. Questo è del tutto errato, anche se la criminalità si può annidare tanto nel mondo zingaresco, tra virgolette, quanto nel mondo dell'alta finanza, anzi, molto spesso in misura anche maggiore. Quindi noi abbiamo dei pregiudizi dovuti a una particolare educazione, a particolari condizionamenti sull'ambiente zingaresco, ma in realtà gli zingari sono i depositari di un'antichissima tradizione. Alcune leggende li vogliono provenienti addirittura dal mondo sotterraneo, dall'Agartha, questo centro spirituale che si trova ancora oggi in Asia e dal quale i maestri della sinarchia occulta governano il mondo. Gli zingari possiedono in realtà una loro Bibbia, una loro religione, alcuni costumi di cui il tarocco fa parte. È per l'appunto la Bibbia degli zingari, il libro di Thoth, il libro di Ermete Trismegisto, che adesso noi possiamo vedere attraverso le lame dei tarocchi. Ovviamente questo non è un testo per principianti della tarologia. Papyrus, noi abbiamo già detto, era un grande cabalista, un uomo dalla cultura immensa, e quindi tutta la prefazione, che come spesso accade in libri di questo genere, è storica. La prefazione introduttiva ci conduce a comprendere sia quali sono le società segrete, le segrete che hanno tramandato questi archetipi che poi sono stati trasfigurati nelle lame dei tarocchi, i popoli ai quali appartennero, e tra questi popoli gli zingari, i cosiddetti Bohemian per l'appunto. E quale siano le loro connessioni con i segreti cabalistici più importanti, i segreti cabalistici principali. Ovviamente tutto questo non può che essere connesso anche alla gematria, alla numerologia e ai miti massonici dell'inizio. I miti massonici del Tempio di Salomone, per l'appunto. Quindi un lungo, lunghissimo e molto dotto excursus sulla numerologia ci aspetta in questo testo sui tarocchi Bohemien, fino a passare per l'appunto all'esame delle lame vere e proprie. Un esame che viene fatto in maniera veramente, veramente elaborata, molto dotta e sicuramente approfondita di conseguenza. Noi sappiamo che esistono i settenari e che ternari, settenari, che vanno a costituire quello stesso albero della vita cabalistico, le cui sefirot sono collegate da 22 sentieri, rappresentati per l'appunto dai trionfi dei tarocchi. Un libro, questo, che è veramente, veramente completo e va a toccare, devo dire, dei punti, perché arriva fino all'induismo, fino all'estremo oriente, facendo delle interessantissime connessioni con l'I Ching, per esempio, e con le metodologie astrologiche di popoli molto lontani, Dicevo che va a toccare dei punti che altri libri di questo settore generalmente non considerano. Quindi una lettura veramente approfondita che vi consiglio assolutamente sia per i praticanti della tarologia, coloro che fanno effettivamente, che leggono le carte, anche come lavoro e come anche coach dei tarocchi, la pagina di Alessandro insegna per l'appunto come muoversi in questo tipo di lavoro, sia per gli studiosi di Kabbalah, gli studiosi di astrologia, gli studiosi dell'occultismo in tutte le varie branche in cui è suddivisa. Quindi i tarocchi bohemien di Papus, edito da Psiche 2. Un libro che sono sicuro non mancherà di aprire nuove porte alla comprensione di questo mondo ancora molto misterioso in tutti voi lettori, se sceglierete di entrarvi. Bene, per questa sera io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi aspetto qui alla libreria esoterica Il Sigillo, vi ricordo che il nostro shop online è attivo, libreriailsigillo.it, e buona serata a tutti, alla prossima settimana.